lui. Cosa c'hai? Caro dottore Squalo, oggi tutto il giorno avanti e indietro a fare commissioni, a fare spese, a comprare medicine, a comprare favette, a fare la spesa, a cercare parcheggio. Oggi ero fuso, mi sta scoppiando la testa al caldo. Arrivato a casa mi sono bagnato la testa e la faccia, proprio sotto l'acqua. Oia, mamma mia, maledetta estate. Non sono più abituato io all'estate, non la reggo più. È brutto, se non sei abituato. È brutto, e buonasera comunque. Io, buonasera. Qua vedo che non state entrando molto, da. Perché, caspita, no, non voglio stare nemmeno tra l'estate. Con il ventilatore sdraiato alle mutande, no? O anche senza. Ecco, adesso sono così, mutande, sto bene. C'è un po' di finestra aperta per far passare aria, c'è appena di arietta. Ma quando vado al sole in macchina, mamma mia, non te ne dico. Clima o non clima, è macello. Anzi, se metti il clima ti fa più male, perché dentro freddo, fuori caldo, dentro freddo, e ti viene un accidente. Va bene, adesso stiamo per mangiare. Dai. E quindi ti saluto già da adesso. Ok. Sono abbastanza moscio, no? Non voglio nemmeno parlare. Dai, ci sentiamo. Ok, ciao Marco, ci sentiamo alle prossime. Ciao. E buon appetito. E Pomponio non è entrato oggi, non hai sentito, no? Ho sentito, ieri è entrato, l'ho sentito ieri, poi l'ho dovuto lasciare verso le 8. Ehi, va bene, dai, sentiamo, un saluto a tutti. Se hai sentito, un saluto. Ok, ciao Marco. Oh Mari! Ebbene, come mai? Sì, come niente mai? Io va a vedere mi cena 5 minuti fa con Marco. Oh. Madre, quest'anno l'ho acceso, era al computer. Beh, ho detto adesso a vedere un po' che c'è. L'ho acceso, mi ha fatto la fischiata. E ha risposto tu. Non era acceso. Sì, vabbè. Ho acceso che erano le 5:30. Oggi hai fatto prima tu allora, Ma sono sveglio da parecchio, però mi sono attaccato al computer e stavo guardando questo fatto di biciclette, capito? E così via. Ho detto mi sembra che lo tengo il computer. Invece ho acceso il baracchino e quello sta ancora guardando. Ancora le batterie ti stai guardando? Ancora le batterie? C'ha pugliente, gatto. C'è pizzacchiere, la bacia all'altra. Quella lì precisa la mia, precisa. Stavo a telefonare a quello là e ancora non ho telefonato. Ma forse riesco a telefonare domani mattina a vedere un po' se c'è più corta leggermente, almeno 2 cm o 3, che vada bene a quella bicicletta che ho io, la prendo, capito? Per fare almeno bastare ancora di più il cellino. Cazzo, almeno posso stare seduto, allungo le gambe e mi fermo, capito? Mi tengo in equilibrio. Se non tocca stare con la punta, certe volte magari non fai il tempo. E dici, come ti stacco imbattato, come mi è successo? Sì, bisogna abituarsi ogni tanto per allungare le gambe. No, vuole più bassa, dai, va bene, più bassa. Vuole almeno 3 cm, 2,5, 3 cm, minimo 3 cm, dai. Vabbè. Se riesci a trovartela. Ma loro ce le avranno queste batterie, boh. O mi diranno se quella più corta va bene, se non va bene, capito? Se non va bene non la prendono, però se va bene altro è corto la prendo, almeno il sedile posso abbassare quasi tutto e io sto bene, capito? Mi posso fermare seduto e allungo le gambe e rimango dritto, capito? Sì, sì, è meglio così, rimane un po' dritto, rimane. Certo, se no tocco con la punta, con la puntina proprio del piede, no, non va bene, non va bene, c'è proprio un affalamento, cazzo, non va bene, cazzo, così che è così, ma vediamo un po'. E allora dove ci andate? Stami sul lungo. No, ci faccio nulla che nulla. Io sono andato a prendere lì che stavo facendo un'analisi. A prenderla, perché sei sempre alle 9:30 sono stato io e l'ho presa e siamo andati a Coso, prima lì al cimitero, siamo usciti, dopo siamo entrati a Coso, a Cirenze, lì di fronte a vicino alla Capusata, dopo dove cavolo siamo andati? All'isola siamo andati, là. Abbiamo fatto un po' di spesa e ce ne siamo quasi mezzogiorno era, dai. Fatto bene. Ma si è girato un po' caribbe. Ma si può girare, no? C'era un caldo da morire, sto. In macchina non si può stare. Poi siamo scesi lì al cimitero, proprio, dove eravamo noi ci piombava il sole, cazzo. Per carità, mi ha sudato, ragazzi. Purtroppo. Troppo bisogna farlo ogni tanto. Vabbè, in macchina si può girare, poi ci sono bisogno di ciducci. Ma io forza maggiore devo andare a prendere lì, capito? Poi dovevo prendere anche l'appuntamento per l'Ecolopolis. E per lei l'ha trovato il posto, per me no. Così che adesso devo ritelefonare e poi se ne manca qualcuno a infilarmi a me. Abbiamo fatto un po' di giretto, dai. Da una cosa all'altra era quasi mezzogiorno. Devo farlo piano piano, sempre andendo. Ma con questo caldo non conviene. Però forza maggiore devi andare, capito? E come fai? Come fai? Il tram non viene bene, se devi andare in tanti posti non viene bene il tram, perché devi spostarti e dove ci sono i mezzi, come fai? Allora sei costretto a stare in macchina, ma non si butta in macchina, non si poteva stare lì. Già è peggio il tram, ma in macchina è ancora più peggio. Sì, cazzo, per carità, cazzo, così che stasera non sono uscito, domani non devo uscire nel suo posto, domani sono tutto il giorno a casa per cui sono tranquillo. E ti rifugi domani? Sì, ti ho riposato io, certo. Mi sono caldato 2 mesi, mi sono cominciato a girare quasi le 5:25 quasi. Allora già ti sei rifugiato da gira. C'era anche caldo qua, vi ho acceso la ventola. Cazzo, si sta bene, con la ventola accesa ho dormito bene perché c'era la rietta e così che ho riposato bene. Là. Sì, va bene, così, almeno così c'è più fresco. E ahi, mi stanno chiamando, dai, rientro dopo eventualmente, ok? Sì, ok, Giomai, già sono qua. Sei a Giammarì. Nessuno è entrato. Stazione Burita. Tutti al mare sono. Vedassi, vuol dire che gli piace la spiaggia. Ascolta, il PMR acceso ce l'ha. Sì, ce l'ho acceso. Aspetta che devo fare comportarti di mio per un po'. Siccome me la cauto per terra e si piegata l'antenna per vedere un po' se funziona. Eccoci qua. Sì, io sono qua. Sto lì tutto a posto, va, bene o male, no? Sto fatto il sudano, va. No, io pensavo che era crepato nel circuito e... perché ha fatto il mio zocco. Sì, ma no, quelli sono infrangibili, sono. Infrangibile, è un giorno di fare, infatti, a tutto. Cazzo. Lì siamo andati, beh, cazzo. E la testa di Berger è quasi 1,50 m, anziché ha fatto il zocco. E si è piegata l'antenna, capito? Completamente, a uscita è fatta. Sì. Succede così, però all'apparato non gli è successo nulla. E l'ha ammortizzata l'antenna, là. Era male, là. Ho visto che già funzionava tranquillo. Va bene, va bene, va bene. Cazzo, non entra nessuno, cazzo. Marco si è ritirato, sta frazzando adesso, Marco. Boh. E mi ha detto che stava... che stava pranzando. E allora tra un po' dell'altro a mangiarsi i dolci anche e ci passa fra una mezz'oretta e più. Qualcuno c'è sempre, Gianmaria. Ehi Gianfra, buonasera. Ciao, ciao, ciao Tore, ciao Gianmaria. Comunque stai arrivando bene, anche se Tore arriva molto ma molto più forte, fondo scala incollato. Non ho capito Gianfra, ripeto. In PMR Tore arriva a fondo scala, tu arrivi un pochettino, poco poco di meno, però sempre segnalo. Oh, e allora va bene, dai. No, va bene, era piegato, si è fatta una, trattenilo, è fine fine, cazzo. Come è caduta, no? Si è piegata, ha fatto la U. L'ha drizzata, però si è rovinata la guaina, no? Che copre la molla. Adesso ho messo quella guaina ristringente, ho visto che rimane dritta. Poi ho visto che funziona, se mi dice che funziona bene, va bene. Allora non ci ho fatto niente l'apparecchio là. È un portatolino piccolino. Già va bene comunque, già andava bene, non è successo nulla. Imprenditore, buonasera, buonasera. Sì, ciao Gianfra, stammi bene. Ne siamo abbastanza furti stasera, perché ci siamo messi sotto accetto. Oddio, stare bene è una parola un po' grossa. Perché io sono strampato due volte ieri, quindi non è che sono tutto lividi. Sì, non è, cioè non è nulla questo. No, l'importante è non fratturarsi, quello è l'importante. Riprendi Gio Marì, che caldo che c'è qua, mamma. Io lo vedo dire, no, cazzo. La mattina siamo usciti, cazzo, ma ti dico che in macchina non si poteva stare. Tutto un bagno, cazzo, madonna, cazzo. Ma stasera qua, dopo pranzo, ho acceso il condizionatore, già c'era un po' di fresco, per cui ho riposato anche bene stasera. Però, cazzo, c'è caldo, c'è aria calda, capito? Che, c'è poi su, il caldo lo deve anche fare. Però il troppo fa male, specialmente a noi vecchietti. Quindi anche Tore è vecchietto, così? Ah? No, a noi vecchietti ha detto, quindi anche Tore è vecchietto. Tore è vecchietto? Sì, io? No. Aspetta, per giovane di me non ve ne altro. Quindi, Giomari, sei solo tu mi qua vecchietto. Più giovane mi sembra che sono io, vai. Ah, sei anche più giovane, boh, siamo rovinati all'occhio. Così è sto. Giomari. Boh. Oh, l'occhio. Ah, piccina. Per carità. Lo soffro molto il caldo io, ma molto veramente. Per cui ieri, a partire ieri, cazzo, in campagna, cazzo, proprio in mezzo al sole, ti dico che oia, poveri noi, cazzo, ci ha fatta beffa. Non vedevamo camminando, lavorando, cazzo, non si vedeva, cazzo, perché si coprivano anche gli occhi, il sudore, cazzo. Però oggi ne ha approfittato, Hai fatto bene, Gio Maria. Così almeno fa bronzi e le signorine si gira, spero so. infatti. Certo che andiamo e andiamo. Adesso, sai com'è? E adesso, scende il campagna, col saranno. Chissà, se fa fresco già ci scendo, se ho, no. Più bene qua al fresco, tranquillo, solo che se devi uscire a fare delle compere, se devi uscire per forza in macchina, così che è un macello, salvo che non fai presto, però presto, come fai a uscire presto? Non ti sembra? Infatti è così. Tu lì sei all'aria aperta, c'è più aria lì e stai più bene. Beh, aria sicuramente sì, però io poco fa stavo subendo la bici, ma c'è un caldo insopportabile. Lo stavo spolverando perché tra le cadute e il più varo le tamane, guarda, c'è il tifo. Col compressore una passata, ma non si poteva stare, anche perché iniziano ad esserci tante mosche, quindi sono terribili quest'anno. È brutta, io preferisco più l'inverno dall'estate, perché almeno in inverno magari uno freddo si copre e riesce anche a riposare la notte. Certo, ma caldo come fai a riposare con questo caldo? Tutto aperto, niente a fare, c'è caldo a morire, tutta la notte l'aperto accesa, e se no come fare? Non ci riesce a riposare, capito? Per cui, però con la ventola accesa e un po' si sta bene, va. Mamma, sono questi francesi che sono una cosa che non si sa, ragazzi. Tutti 9 qualcosa, insomma. No, vabbè, qua c'è sempre un grado comunque in meno rispetto a quello che c'è in città veramente delle stesse di più. Qua adesso tra poco, tra un'oretta, quando il sole si sposta, scende verso Alghero, inizia un bel freschetto e sta bene. Ma infatti, qua non passare, mentre il più aperto magari è tutta un'altra cosa, però quando c'è caldo anche lì è la sorte, però si sa sempre più bene di qua non è possibile. Poi io sono sotto terrazzo, capito? Quando scaldano quelle piastre di cemento e cartone catramato, la porta si bollisce, si va a toccare il bolle. Sì, già lo so, Giovanni, c'ero anch'io di lì, in quella zona, ed ero in mansarda, quindi si può immaginare. Chiarezza, ragazzi, se ci fosse stato il seco si sarebbe stato anche più freddo, invece no, è tutto terrazzo, per cui quando scalda quelle piastre scalda tutto l'appartamento, capito? Sto cazzare, ho avventolo con il condensatore acceso, però il condensatore bisogna stare anche attenti perché fa anche male, per cui preferisco la ventola, ecco, quella con le pali lunghe a 5, quella sta bene, me l'ha messa proprio in mezzo e ti dico che si sta veramente bene, va? Riprenditore, pensavo di prendere due di quelli il colore, darle una di quelle palme grandi, no, che si usava in antichità, per farle soffiare. Sì, ma non basta quelli, no. Bisogna attaccare un condizionatore. Qua già c'è Roma, no. Poi va ben fresco, va questo qua. Esci fuori e ti fulmina. Sì, io l'ho attaccato io oggi dall'una fino alle 4, però non stavo benissimo dentro, anche se fuori c'era più caldo, no, non l'ho tenuto io molto forte acceso. Perché se c'è necessità di scrivere un attimino fuori, poi ti sei, ti fa male, capito? Già le basi termiche sono micidiali. Se poi ci aggiungi anche il condizionatore, guai. E così è Gian Marino. I dolori, mamma mia. È quello che è. Il condizionatore fa per di più i dolori, quello è. Ma lo sai cosa faccio io? Io prima di coricarmi la notte, lo accendo una mezz'oretta prima, no? E più, oppure quasi l'ora, così che rinfresca bene la camera, capito? Dopo lo spengo e infilo il mio soprallettino, boh! Cazzo, si sta bene, ma io un quarto d'ora, mezz'ora, come se dico poi io di nuovo è caldo, allora mi accendo la ventola e la ventola sa che tutta la notte è accesa, anche alle 4 di mattina la spengo, capito? E per cui, perché lo soffro molto il caldo io, capito? Troppo è, guarda se mi manca quella ventola, e poi è troppo rinfrescante, non fa male, sono tranquillo, capito? Mentre il condizionatore fa più male. Perché quando muove l'aria solo, il condizionatore invece porta più freddo. E allora, quello, però, qualche volta bisogna anche sopportarlo piano piano, chi lo può sopportare? Tore già lo sopporta, vero? Sì, non sai, no? No, sai, lo sopporto io, infatti mi sono capizzato tutta gira, che mi duri, un fianco mi duri. È perché il condizionatore fa quell'effetto, è maledetto, Beh, conviene, chiudi, l'accendi, chiudi la camera dopo aver rinfrescata, lo spegni e ti metti dentro, è già diversa la questione, capito? Sì, ma non mi butti più, no. Ma domani che mi figliura, dai, ci soffri un bel gallo e ne vedi è tutta gruggata. Ma che a me io c'ho la diabete a luna, prima di attendirlo. Allora, prima, a pranzo, prima del pranzo l'accendo anche in cucina, perché c'ho anche in cucina. Oh, ne ho uno in ogni camera io, capito? Per cui me l'accendo, capito? E cazzo, se no come fai? Con questo caldo così ancora niente, ancora deve venire il caldo forte, per cui è peggio ancora. Dopo, capito? Però quando c'è la necessità di accendere, capito? Allora cosa era giubilato? Abbassa novembre, non saranno già fra. È così, infatti mi stavi guardando, inserendo tutto, premo il pulsante e lo lasciando anch'io, perché poi devi tenere tutto chiuso, no? Perché se apri qua, cioè adesso c'è il sole che è puntato e ti scalda subito, anche se c'è il cappotto che protegge tutte quelle cose lì, però è sempre un problema. Poi cosa si lamenta il dolore al fianco, a me mi fa male direttamente tutto il torace perché ho sbattuto a terra. Insomma, ho pigliato un colpo, non si dico io mai. Per carità, ti colpio io, tu poi era quello che ho preso io, che posso ringraziare che sto parlando io, mi è andata bene, però io, cazzo, se io dovessi accedere quando sono dentro, poi l'indomani non posso stare nemmeno, non posso nemmeno camminare, dai dolori, puoi immaginare. Così che lo accendo, lo rinfresca la camera, dopo lo spengo, capito? Se no, quando se l'ha acceso, no, la vento, mentre invece non mi fa niente, perché è sulla volta la ventola, capito? È abbastanza alta la volta, per cui si tocca i piedi e rinfresca tutta la camera, perché questa la cameretta è piccolina. Ciao, to! Per cui si sta bene, vai. Ok. riprende già fra. Ma il fatto che mi ha preso il gomito, sul gomito è fastidioso perché non lo puoi appoggiare, ma anche quando entri in macchina lo sbatti e vedi le stelle, e tutto il gomito e il braccio sono tutti, come si dice, c'è la ferita, dai, non è uscito tanto sangue, però ho sbattuto io. Vabbè, già passa anche quello. Piano piano, ogni cosa viene fatta, però più si va avanti e più escono fuori i dolori, poi specialmente a una certa età non è che puoi migliorare, no, va andando peggiorando, è quella pazienza, però l'importante è che si riesca a respirare un po', Già stai attenti quando si va in bicicletta, anche io ne so qualche cosa, anche grazie agli avviraggi, no, è dicevo, già passami, piano piano, vero Gianfra? Ma il fatto che ieri era una giornata, no, eh? Ieri sono caduto due volte, la prima mi è andata bene, ci sono uscito dentro un rovo, man mano non c'erano spine, però mi sono tagliato il braccio, eccetera eccetera, un sentiero strettissimo, ho incontrato una pietra e lì spuntavo, non me ne sono accorto, bodobom, caduto a terra, e vabbè, poi circa una mezz'ora dopo sono entrato lì verso Portoferro, e un'altra stampata, ho incontrato un pezzo di sabbia, mi ha buttato a terra e quindi mi sono fatto un po' male perché mi ha preso il gomito, eccetera. Sai, quando sei ragazzo, anche se sono automatici, non fai in tempo a togliere i piedi dal pedale, quindi sono caduto bicicletta e tutto addosso, ragazzi. Ma porca la miseria. Mentre invece stamane mi è andata bene, dai, stamane non sono caduto, ho fatto un po' di, così come si dice, di un piccolo percorso, molto poco, perché insomma non è, ieri ho fatto 48 km, oggi mi sono fermato a 20 perché ero tutto un po' dolorante, però è andata, adesso vediamo domani cosa succede. Gianfra, piano piano, dovresti andare in chiesa a farti benedire un pochettino. Sì, già, in effetti quello è il minimo. Guarda, ieri in macchina, c'era quanti ieri, venendo a casa, ho incontrato un autocarro che era sull'altra corsia, guarda, e io ero anche su un dosso salendo, quindi l'ho visto all'ultimo minuto, ma ormai c'ho freni buoni, sono a quest'ora, non sarei qua parlando, questo qua si è messo su una corsia, posso passare dei ragazzi in bicicletta, per un pelo, guarda, non la sono vista brutta. Poi io, quando ci si mette, un attimo, riprende Giovanni. Che la caduta ho fatto io dall'albero, non era tanto buona, no? Facendo un espo legato in campagna, è quasi 5 metri alta la pianta, e poi ne sono caduto a testa in terra proprio, a testa giù, col ramo che ho rotto, attaccato alle mani, però mi ha ammortizzato un po' quello, però ero tutto rotto, che non sono stato 5 mesi che le so io quello che ho passato, e non mi potevo muovere, nulla, dovevo stare dritto, basta, non ti potevi girare, e via, non so io quello che ho passato, e quella è brutta, sono tutte brutte le cadute, però una più dell'altra è già fra, però mi è andata bene, per cui, però come cambia il tempo me le risento, come me le risento. E se dovessi prendere questi coppi d'aria così con condensatore, non ti dico niente, per carità. Però grazie a altre persone stanno più male di noi, per cui grazie a Dio sono riuscito. riuscito a superarla, e per cui ed eccoci qua. Ok, vai to. Sì, bisogna stare attenti, bisogna stare a tutto quanto, ma è proprio, bisogna aprire gli occhi, bisogna andare, quando si è in bicicletta, ma non caggiù. E ti avevo detto l'altro giorno cosa mi è successo, no? Vado a fermarmi, siccome non ci arrivo bene, non ci arrivo bene a terra, seduto nel sedile, come ho frenato, mi sono fermato, non ce l'ho fatta a togliere il piede e a mettermi dritto, e così che ci sono sceso da fermo come un pezzo di, come un sacco di patate, te l'ho detto. Io so che la bicicletta sopra, per dirci, ecco, perché io volevo abbassare leggermente il sedile, per quel motivo, capito? Almeno abbassando di 2 centimetri io ci arrivo benissimo e sono tranquillo, già vado piano, però è un attimo, nemmeno ti immagini, succedono le cose, è così purtroppo. È un attimo, è inutile, la persona poi si accapa e si getta a casini, già fra, è così purtroppo. Su quando non ci piove, Giovanni, chi va a cavallo, che sia due ruote o che sia con le zampe, è destinato a cadere, l'importante è riandarci subito per non avere paura, capito? Così. Io poi tu cercavo della velocità, quindi se vedi a me ti spaventi, perché ieri ad esempio scendendo lì da Capocaccia ho sfiorato i 50 km all'ora in mountain bike, sono tanti, e senti l'aria a velocità, non è una cosa da corsa, che è un'altra cosa, però se sbagli poco a poco, insomma, ti riprendi colpi brutti, perché bisogna andare piano, come dice Tore, bisogna andare piano, però nemmeno ti immagini se c'è una cosa, è così purtroppo. E Tore ne sa qualche cosa pure, no? Sì, ero grido. Che figli, appena le sabbia e zici dritto, zici. Aspetta che andiamo. Poi non so se tu hai quella raccolta, Tore, ma con quella raccolta già lo sai. A me è capitato addirittura un rettilineo lì dove alla Marina del Sorso c'avevo quella raccolta, eravamo insieme a un altro. Non so neanche cosa è successo, guarda, so solo che mi si è fermata la ruota lì davanti ed ero in aria, sono volato e caduto a terra. Meno male la macchina hanno frenato, quello che c'hanno dietro sono guai. E poi piano piano sono dovuto tornare indietro, mi hanno un po' medicato lì perché allora c'era il coso iperbarico. Poi piano piano sono tornato indietro, tutto sangue, tutte le macchine che si fermavano a guardare. Mi si è tutto seccato il sangue sulla faccia e sono andato al pronto soccorso, sono messi a ridere, scatto con lo scemo. Davra, capita, sì. E dove sei caduto? La Marina di Sorso? Sì, ma ero giovane, Gio Marie, avevo avuto una 30 d'anni. C'era questa una salita, in salita poi, quindi tutto andando piano, ma quella raccolta è terribile, se trova un pochino di sabbia, un po' di ruote fine, cesci, è una meraviglia. Mi si è inchiodata la ruota, non ho capito ancora come possa essere successo. Si è proprio inchiodata e mi sono capovolto un po' le cose, mi sono visto in aria e basta, sono sganciati, ma normale sono sganciati i pedali anche, che anche lì sono automatici. E così, no, ieri invece sono caduto proprio perché ho incontrato un crato e come dice il sole la sabbia di nuovo, sono strampato come un fesso. Fortunatamente da una parte c'era un cespuglio, ma dall'altra c'era il duro, ma e vabbè, cosa che capita, no, dai. L'importante è stare sempre in piedi poi, E quella è la cosa più importante. Oh, è successo a me una volta in bicicletta, ma giovanissimo, avrà avuto 16 anni, 16 o 17, una cosa del genere. Allora, allora tra ragazzi dice da Cappuccino si fa via San Francesco, si fa tipo il circuito, no? 4-5 ragazzi, certo, proprio la bicicletta a corsa, ne siamo scesi dalla corsa di fronte al mercato di Alberto per andare a Corso Piccolo. Lì c'è la chiesa, no? Io avevo la ragazza lì sotto quel portico e c'era la ragazza nel portico. Io mi sono girato per guardare la ragazza, cazzo, e invece mi sono trovato da 600 davanti, cazzo, si è fatta la portella rotta e io sono uscito davanti alla 600, cazzo, e ho dato la caduta alla borsa, non mi dimenticherò mai. Sì, ma allora quando eravamo giovani per prenderli questi colpi, adesso quasi 81 anni, cosa pretendi, Giomari? Se cari ti fa male. Vabbè. L'altra volta avevo caduto in moto, avevo preso la guzza e lo stornello 125 e io avevo una ragazza e un altro amico mio a Banari, no? E dice, mi ha detto l'amico mio, dice, sei compleanno della mia ragazza, dice, c'ho la sorta, non so come andare a Banari, no? Andiamo, ti porto io, tanto devo andare anch'io. Cazzo, lì in Campomela uno mi ha detto, dice, fammela provare questa moto. Detto, no, non ce ne do, no. Dai, la busta. Allora non c'era ancora la strada, la superstrada fatta, si passava a coso, a come si chiama, in quel paese che aspetta. Ma, quel paese vicino a coso, a Ploa, come si chiama? Tra Fiorina, se provare, come si chiama? Che è prima, stava andando verso Ploaga, che non c'è un altro paese, prima si passava lì per andare a Banari, capito? A Codrongiano, si passava prima a Codrongiano, però sotto c'era un pontile, c'era. E allora la superstrada era appena ancora, nemmeno finita era, però non si poteva passare. E questo stava passando lì, no? Però ci passare ancora, ci passare chiusa. Tutto un tratto gira, troviamo il pontile e ci siamo usciti dentro il pontile, che c'era la massa di Ru, non si conosce, lui aveva lo sbocchi, aveva e la torta in aria, tutte e due come due pezzi di salame. Torta, chi l'ha mangiato torta? L'hanno mangiato gli uccelli, tutti fracassati, ne siamo usciti. Importante è raccontarlo sempre, Gian Maria, quello è importante. Poi avanti Tore. Sì, cazzo, bisogna stare bene attenti. Io ho una mountain bike che è leggera, ci ho messo i copertoni da strada, ci ho messo, pensa un po' che tanto giù fisato, so quanto è quelli della bicicletta da corsa, pensa un po' che tu sei caduto con quelli e adesso ho riscigato con chi. Ma quelli vanno bene solo su strada, stato osservato di lì anche il cerchio si parte, no, i miei sono proprio da Ferrato, quelli larghi, la bicicletta è, secondo me questa, l'ultima è abbastanza pesante, sono 25 kg da tirarti dietro, l'altra invece è una piuma, però quella lì è elettrica, quella pesante, per l'altra è a forza, ma fare tutti quei chilometri così è chi ce la fa più, non è che, anche se moltissimi, i primi 10-15 me li faccio sempre con tutto il carico e senza usare il motore, poi ovviamente quando ci sono le salite l'attacco. In discesa è veloce, ma la sorta è molto veloce. anche questa che ho io mi è fatta così, è velocissima adesso. No, cioè io ogni tanto prendo e li cambio e faccio serrato, mi faccio e a voglia, infatti avevano una più gana di gumi, non faccio nulla. Infatti, no, stamane mi volevo riposare, invece ho fatto l'imprudenza di andare a Siccorsi lì a, di andare a Popoferro anche oggi. Sono andato, ho fatto, perché volevo vedere questa strada com'era, mai l'avessi fatto, guarda, a parte era stata piena di feste. Poi dei buchi enormi che se ci cadi dentro non ti acchiappano, infatti volevamo passare anche dei turisti con la moto, ma avevo detto no, se poco ti si ferma la moto lì è chiuso. Ho provato a scendere, sono sceso sì, però sempre frenando, con la paura sempre di slittare, perché c'è la sabbia finissima, poi una cosa micidiale. In salita me la sono dovuta portare praticamente a tinta. Facevo qualche salita, qualche pezzo di salita, ma poi non vedi, hai capito? Non c'è presa, anche se le ruote sono da cross. Però quando fa la salita così ripida, è così pericolosa per i bambini. Fatti di sabbia, ne voglia qua a pedalare, però finisci e cadi a faccia a terra. Ah, c'è quale dovresti fare? L'altra strada che porta da Portoferro porta all'Argentiera. Quella che c'è parecchio rettilineo e la strada è molto buona, senza buche. Io l'ho fatta quella lì, l'ho fatta anche in macchina, l'ho fatta. Quale è? Non ce l'ho presente. Vuol dire, dopo l'hanno fatta adesso, ultimamente, queste giornate qua di quando c'era il rally. Quella strada lì la fanno anche con il rally, la fanno. Ma dunque io conosco, io stamattina sono passato dal lago di Barat, no? E scende lì, ce ne sono due che scendono verso la torretta. Una mi hanno detto che era messa malissimo perché ne è salito un moto che ci ha rinunciato. Io ho provato l'altra e peggio che mai, sto pieno di veste, di buchi, polvere, eccetera. Poi ce n'è una che va all'Argentiera, però deve andare verso Palmarola, quella. Infatti è quella che va verso l'Argentiera. E poi te lo fai, poi andando te lo puoi fare da Palmarola, te lo puoi fare verso Porto Torgemi come strada, che ci sono parecchie curve e c'è parecchio sterrato anche. Io me la sono fatta quella lì e ti dico che mi sono divertito. Era una giornata nuvolosa, però era bellissimo. Quanti chilometri sono in tutto? Se me ne ha giovato una settantina di chilometri, mi ha giovato in tutto. Sono arrivato a Porto Torrice, sono arrivato. Poi da lì piano piano mi sono durato da casa, però sono quasi una settantina di chilometri, perché mi sono fatto da Palmadola a Porto Torrice. Dal cosa saranno una decina di chilometri, neanche pure. A me piace avere un po' di paura, la strada solo così mi annoia un po' comunque. Adesso domani vedo un po', domani mi faccio questo percorso, Porto Torres, la passeggiatina, giusto perché se no tutti i giorni ti fa anche male. Posso rifarti bene, ti fa male. Faccio pochi chilometri. Anche perché io esco presto, sono alle 8, sono già in movimento, però dalle 10 poi inizia il caldo subito, era una sofferenza, è così. Io e Giovanni domani ci viene a fare un giro, ci facciamo poco, una trentina di chilometri. Sta fra, stati calmo e stati dica, oh, non saranno, prima di uscire fuori, no? Non la sto prendendo io, guardi, non la prendo qualche volta così, qua dietro, scendo lì, fino al campo sportivo, dietro la chiesa, ma qua solo, capito? Un'oretta, non di più, piano piano magari, poi al caldo, e chi la tocca la bicicletta al caldo? Saranno già fra, no, non ce la faccio io lì, a me il caldo mi ammazza. Magari essendo una giornata fresca è tutto un altro discorso, però fuori lo cerco ancora perché devo prendere pratica ancora, capito? Fatti voi tranquilli, mi attore, portati, è meglio. Oh, io la sto lasciando ferma per il momento, è troppo caldo c'è adesso, oh, non ha giocato di giuffri. Preferisco quando fa più fresco, che ci può stare bene. Ma no, no, no, andava, non è fa in me. E infatti allora, questo come si fa? Oh, ma saranno, so, non conviene. Salvo magari io, che lo esci verso le 4, 4 e mezzo, così che ancora non c'è, c'è il fresco. Allora sì, ma dopo le 8 e mezzo, le 9 comincia a essere troppo caldo, per cui lasciala fare a Gianfranco, che lui sopporta il caldo. Sì, Giomari, un orario adesso, ma lo sai cosa c'è dalle 4 fino a... oggi fino alle 7 ad esempio. Cioè, beh, a quell'ora veramente ti viene il coccolone. Alle 4 c'è una temperatura folle. E la mattina c'è sempre fresco, dai, comunque si sta più bene. La mattina fresco è tutto un altro discorso, ma dalle 8 in poi, alle 8 comincia a essere molto caldo, mi capito? Quello è il punto, come beh, oh, c'è quello che riesce a sopportarlo, io non ci riesco. Oh, anche senza far niente, sono sempre sudato io, ti puoi immaginare. Poi magari ci saranno le persone che il caldo riescono a sopportarlo. Tu lo sopporti il caldo? Io sì, abbastanza. Però ci sono anche un po' abituato. Vabbè, ma tu sei anche più giovane, dai. Oh, Gianfra, io ho 81 anni, io come, ma ti sei portato andare a fare percorsi così, oh, ci sono che lo fanno, no, ma io non ci riuscirei assolutamente, capito? Lo so, farti giovane, Ettore. Quanto c'ha? 35 anni, così è to. Sì, papà, fanno 35 una base e 30 all'altra. Vabbè, io poco fa ho detto 81, ma in realtà mi sto avviando ai 61, quindi comunque già pesa, no? Anche se più giovani non ci credono, pesano e come. Ok, già per là, riprendo e chiudo, che mi sta chiamando la signorina qua, e per cui ne approfitto. Io grazie della chiacchieratina, faccio piacere, già fra, buon proseguimento di serata, sono Tonicato, e altrettanto attore, riprendi tu, io vi ascolto per il fine anni e chiudo, vai, a domani se coincide, a ti sentire, vai tu. Sì, ok, ciao Gianmarì, stammi bene. Ci sentiamo domani, ok, riprendi Gianfra. Ok Giovanni, dai, anche oggi ce la siamo fatta la chiacchierata. Abbiamo passato un'oretta tranquilla. Buona serata, alle prossime Giovanni. Accenditi il ventilatore, che c'è caldo. Ciao ciao Giovanni. Ok, è già acceso, ciao. Tore, allora, che si fa? La bicicletta comunque è un po' una malattia, meno male che c'è quella che ci... perché poi porta anche via molto tempo, e quando io esco vado da un'ora e mezza, anche due ore, dipende, quindi di tempo ce ne vuole. Sì, vabbè, io me la prendo quando fa più fresco, adesso no, adesso l'ho posteggiata in magazzino, pulita, sai quanta, spolverata, e allora stavo la pigliando un altro poco di più, come ferma. Comunque l'ho usata ultimamente, che stava facendo freschetto. Adesso l'ho lasciata posteggiata, troppo caldo c'è. Vabbè, ma come si dice, se non giri la gamba poi si infigrisce. Se pensa al cane qua, fammi camminare, non ti preoccupare, ne faccio 4 km a radi con il cane, pensa un po'. Ah, quindi anche tu sei in campagna? No, sono a casa io. Sono a casa, ce l'ho a casa, uno ce l'ho a casa, l'altro ce l'ho in campagna con Soine, ce l'ho insieme ai lupi, è una lupa quella che ho, è insieme ai lupi, quindi questa ce l'ho a casa, ce l'ho. Ah, quindi la porti a passeggio in città, dai. Insomma, gli faccio fare un giro bello grande, gli faccio un chilometro, si può dire, la mattina, uno prima di pranzo, l'altro poi al pomeriggio e l'altro alla notte. Allora già va bene, comunque va bene, dai. La passeggiata così va, tiene anche in forma. E così è. Ma quindi sei già, mi ha detto, sono 35, sei già in pensione? Sei già 3 anni che sono in pensione, però mi ha fatto 42 anni e 7 mesi pieni. Io penso che averne 40, quando avrete questi 40 anni ancora di lavoro, se poi cambiano forse 4 anni, 3 anni. Non sto neanche contando perché sta passando troppo velocemente il tempo e questo mi preoccupa un po', ecco. Io manco me sto accorgendo come passo in fretta mese per mese, penso un po', manco vi penso a come sono. Pensa un po', ne ho 66 e non me ne ha fatto nulla. L'importante è la salute, quella è la cosa più importante di tutti, e tirare avanti. Poi, come si dice, come fa la barca, si aggiusta, come è sorpresa, come andare la barca, la baciccia, sai com'era? Sì, quando va la barca la lascia andare, finché va dove la trovi ti fermi. Così. E noi siamo fortunati che almeno qualche passione ce l'abbiamo. Ce n'è uno, c'è un mio collega, io ancora sto lavorando, lui invece è andato in pensione 2 anni fa, ma le pigliata è anche abbastanza atletico, però ogni volta quando incontro me lo dice, ah ma no, tu quando fai eccetera, così ci andiamo in Piazza d'Italia, ma io me lo guardo, non è che ando mai, ma secondo te io sono tipo andare a fare una passeggiata in Piazza d'Italia, ma ho detto, ma sei proprio Massimo. No, io per passeggiate qualche volta la faccio, ieri mattina ero con mio nipote, però no, se cose metto me ne vado fuori, o mio, dovevo uscire in gommone in questi giorni, invece non ci sono uscito per niente. Sabato ho comprato i rasi nuovi, ho comprato baici e invece non ci sono uscito. Io invece l'ho dovuto dare perché il mio era sempre di ormeggiato via al coso, a poco conto. Poi hanno fatto il parco, divieto qua, divieto là, hanno aumentato i prezzi per il rimessaggio, perché io lo tenevo tutto l'anno, il mio era sempre a mollo. E quindi se ne è passata la voglia, quindi l'ho tolto, adesso lo abbiamo qua e quindi l'acqua non si muove, diciamo, già qualche anno fermo. E ne abbiamo più di uno, ci abbiamo, in tutto sono 3 imbarcazioni e ci abbiamo posteggiate, però sono tutte a secco. Io c'ho il carrello e lo porto direttamente in carrello, il mio è con il carrello. Lì ci andavo 20 anni fa, no, una quindicina d'anni fa, ci andavo a Porto Conte, prima di per chiuderlo a Parco ci andavo e ci uscivo da lì e mi facevo dei grossi giri e poi entravo anche a pescare lì, entravo. Oh, c'è da parecchio che non vado più lì. Infatti, quindi eravamo nel nostro periodo, perché io c'ero da tanti anni lì, poi hanno fatto il parco, ho resistito un pochino, ma sto facendo le autorizzazioni per poter pescare così al momentino. Poi però è diventato un casino, no? Io stavo fino a notte tarda, rientravamo anche a mezzanotte, un umido che non ti dica, però ci si divertiva, oramai è tutto divieto, è tutto un casino, per poter pescare devi uscire proprio fuori, poi a parte i costi che sono aumentati in maniera esagerata. C'ero ieri, anzi no, avanti ieri, proprio dopo lo tenevo io, ce n'è uno in vendita, 3.500 euro, un 5 metri che spiccioli di gommone, un Selva, Selva 510, con motore Selva, sempre. Però, oramai di lì è zona off limit. No, io ho un 4 metri, c'ho 25 cavalli, infatti volevo uscire domenica, invece non da va, e vabbè, adesso a fine anno me lo metto in coso, in vendita me lo metto, vi ridico, sempre che i miei figli non mi dicono di no. Poi c'è una cosa, da dire, all'inizio ti va bene, magari che viene sempre qualcuno, eccetera, poi anche gli amici, sai, ci viene no, ce la fare, l'altro no, ma poi c'è l'onda che mi dà fastidio, c'è il male, insomma, piano piano vedi che non ci viene più nessuno, perché si annoiano, non sono, la gente oramai è abbastanza pigra, no? Una gana, io scendevo poi, faccio anche pesca subacquea, mi immergevo, eccetera, ma molti, sai, non sono tutti come noi che le piace un po' l'avventura, sono abbastanza, come dire, pantofolai, dai. Se sai una cosa, io l'ho comprata ieri l'anno scorso la muta, una volta solo l'ho messa, ed è nuova, su tutto quanto. La multa è nuova, una volta solo l'anno scorso l'ho messa. Perché così è che capita, ma anche a me è successo lo stesso, no? Il fucile l'ho regalato, la multa, non so neanche dove sia, e quindi non fa più capito oramai. Sì, ormai, me la metto, torna in vendita, me la metto in vendita, non torna, me la metto in vendita e il resto, boh, non lo so, se così fosse, nel meglio che vendo tutto e se la prendo in quel paese, mare quanto ce n'è. No, ma poi già, quando io ho smesso, mi ricordo, infatti ho smesso, non c'era più niente, era un disastro, proprio, io andavo a poco conto, dimmi, ma cioè, ma prima da quando ragazzino avevo polpi, mugene, c'era poco di roba, poi tempo un paio d'anni è sparito tutto. E infatti adesso vedo, cioè prenderla a fine settembre, all'operarlo a fine settembre e poi piano piano la faccio arrivare fino a fine anno e poi da fine anno me lo metto in vendita. Così. No, poi noi non ci avevamo neanche il carrello, capito? Quindi anche perché dava fastidio, sai, quando lavori gli orari sono anche un pochettino stretti, quindi devi andare lì, accendere il motore e partire. Però poi iniziano a aumentare questo, aumentano quell'altro, insomma, diventa peggio di pagare un affitto, quindi nostre per quelli, a un certo punto dice, ma lo utilizziamo per uscire poche volte all'anno, però il costo è sempre ogni giorno, e allora ci abbiamo dovuto rinunciare. Sì, quando è così, non fa più no. Ormai siamo arrivati a quel punto di... adesso vedo cosa fare. Vabbè, a me mi hanno chiamato ad andare a prendere la signora. Ciao Fra, ci sentiamo alle prossime, ok? Non so, domani, andiamo a fare un'altra oretta domani. Ok, sentiamo Gianfra, ciao. Ok, anche io vado, non mi accorto neanche che posso essere 10. Ciao Tore, buona serata anche a tutti gli eventuali ascoltatori, anche io scappo via a mangiare qualcosa. Ciao ciao. Ciao Gianfra.